Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di cui tratteremo oggi, riprenderemo alcuni degli spunti presenti nell'intervista che il ministro Giulio Tremonti ha realizzato con il Sole 24 Ore ieri, alcuni di voi immagino l'avranno vista, spunti soprattutto per quello che riguarda la parte fiscale. Si torna infatti a parlare di fisco per le imprese, ma non solo. Tremonti ha ammesso che è un sistema complicato e iniquo il sistema fiscale italiano, che ci vorrà una riforma che però dovrà trovare le risorse al suo interno. Ne parleremo in apertura con chi rappresenta i piccoli industriali italiani, quindi il 99,5% di tutte le imprese italiane hanno le dimensioni piccole e medie, e mi riferisco al presidente della piccola industria di Confindustria Boccia, e con i colleghi del Sole 24 Ore per la parte fiscale. Sentiremo anche come va questo inizio anno, con alcuni segnali così chiaramente di movimento, ma sempre a fronte di un meno 5% nel 2009 quanto a PIL. Poi la borsa, oggi, come già vi ricordavano i nostri aggiornamenti, è chiusa a Wall Street, è il Martin Luther King Day, per cui non c'è il cosiddetto riferimento americano. Le borse però sono positive, più 0,7% Francoforte e più 0,6% Parigi, Londra più 0,1%, e per quello che riguarda questa mattina l'Asia, Hong Kong meno 1, e anche il Giappone ha chiuso con un meno 1%. Euro quota 1,43,83, molto bene Telecom Italia, sopra l'euro operazione di nuovo, più 2,5, Bulgari più 2, Exor più 1,83, Tenaris più 1,3, come Luxottica e Ansaldo. Chi perde? Pirelli 1,5%, il Banco Popolare meno 0,90, Intesa meno 0,80, Comital Cementi, Le CIR meno 0,70, Atlantia meno 0,6%. Vi do anche i migliori e i peggiori. Dunque, Antichi Pelletieri recupera, controllata dal Burani, più 13%, e bene anche Carraro più 7%. Chi perde di più? Ceramiche Ricchetti meno 6,5, poca roba. Poligrafici Editoriale meno 3,7%. Allora, il numero per i vostri sms è 349 238 6666. Parlando di tasse, di fisco, parleremo anche di evasione, perché vedo già alcuni messaggi, ma insomma è chiaro che un paese in cui, ultima dichiarazione pubblicata, solo 76.000 contribuenti dichiarano di guadagnare più di 200.000 euro lordi l'anno, e la maggior parte di questi sono comunque lavoratori dipendenti o addirittura pensionati, beh, è un paese in cui non si può pensare a nessuna riforma fiscale senza una lotta seria all'evasione. Nella seconda ora ci occuperemo anche di come sta cambiando la geografia del nostro sistema produttivo. Questa crisi ha tanti effetti, come tutte le crisi pesanti, ha effetti anche di metamorfosi, e sta cambiando il paesaggio, il modo di operare della nostra impresa, anche in questo caso a partire da chi è più in difficoltà, i piccoli e i medi. Comunque, subito le notizie in breve. E continuiamo con i mercati, come sempre facciamo. Il petrolio è tornato sopra i 70 dollari al barile dopo 5 giorni consecutivi di calo. Restando sull'economia internazionale, oggi il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn, in visita in Asia, ha detto che la ripresa asiatica è più forte e più rapida anche rispetto alle stime diffuse dal Fondo Monetario Internazionale, e praticamente Cina, India, Indonesia, Thailandia e altri paesi asiatici si stanno avviando agli stessi livelli di crescita pre-crisi. Ora, se calcoliamo che con questi tassi previsti all'Italia serviranno 4 anni circa per arrivare ai livelli pre-crisi, e andamento analogo dovrebbe avere anche la Germania, 3-4 anni, e vedere che questi paesi sono già arrivati praticamente ai livelli di produzione pre-crisi la dice lunga sulla diversa velocità, ahimè, più forte quella asiatica rispetto a quella europea. E sempre a livello di economia, in questo caso finanza internazionale, timorose di perdere tutto, le banche che hanno crediti con Dubai World, quindi col fondo che è stato salvato per il rotto della cuffia da Abu Dhabi, ricordate la vicenda di 2 mesi fa, hanno deciso di collocare sul mercato il debito della holding di Dubai. Lo scrive oggi il Financial Times. Praticamente uno dei creditori la settimana scorsa avrebbe offerto agli investitori 100 milioni del debito che gli deve Dubai. Il prezzo si girerebbe intorno al 70% del debito, del credito da esigere, che vuol dire rinunciare a un 30% secco pur di ottenere subito i soldi. Non è detto che la transazione andrà in porto. I colossi bancari principali ad avere a vantare dei crediti nei confronti di Dubai sono i britannici HSBC e Royal Bank of Scotland. Riunione molto delicata questa sera all'Eurogruppo a Bruxelles, domani al vertice Ecofin, quindi ministri economico-finanziari prima dell'area euro e poi dell'Europa intera. Delicata perché? Perché da un lato si discuterà se prendere un'iniziativa simile a quella del presidente Barack Obama, cioè una tassa sulle banche più grandi. Ma non è una tassa sulle banche, attenzione, abbiamo letto molte inesattezze, è una tassa sull'esposizione finanziaria, sui rischi finanziari presi. Lo 0,15% vale per le banche che hanno più di 50 miliardi di asset, quindi di investimenti, e mira a rendere un po' più caro l'assunzione di rischio. Quindi se tu ti esponi tanto paghi una tassa in più, il che non vuol dire non esporsi, ma non esporsi così tanto. Dicevo, se ne discuterà questa sera anche a Bruxelles. E anche si discuterà di tassazione comune sui bonus dei banchieri, tema che sapete ci sta molto a cuore, ma oggi ve lo risparmiamo. Il punto più delicato però non sarà una tassazione sui bonus dei banchieri né una tassazione sulle banche, ma la Grecia. I timori dei conti in rosso della Grecia spingono infatti l'euro al ribasso ormai da una settimana. La moneta unica europea ha toccato quota 1,43. Non è di per se stesso un dramma, per le nostre esportazioni è anche un elemento positivo, però insomma è un problema vedere che l'euro perde quota per via di una debolezza sua interna che si chiama Grecia e non di una debolezza del dollaro. Secondo molti analisti il caos finanziario in Grecia, si è scoperto che tutti i conti erano truccati, non solo gli ultimi, quelli degli anni prima, minaccerà la stabilità dell'euro per gran parte del 2010. Atene ha perso tutto la sua credibilità nei confronti del mercato. Del resto si dice che è il deficit al 3,9, poi si scopre che c'è il 12,5. Siamo capaci tutti a fare manovre finanziarie. Due dati ancora e poi passiamo al primo tema. La Germania, il governo ha aumentato sia in Francia che in Germania le stime di crescita per il 2010. Questa è una buona notizia. 1,5% dovrebbe essere la crescita del PIL tedesco quest'anno e anche 1,5% per quello che riguarda la Francia. L'Unione Europea fa sapere che invece purtroppo continuerà a crescere la disoccupazione, anche se leggermente sotto la media. Ma ne parleremo anche nella seconda ora del programma, parleremo anche del commercio con l'estero. Adesso partiamo con il primo tema e mi riferisco alle piccole imprese soprattutto, e quindi all'ossatura del nostro sistema produttivo e la crisi. Noi ciclicamente, per farle sentire anche un po' meno sole, visto che di questo si lamentano, ci occupiamo di loro, andiamo a fare il punto su come si stanno traghettando o in alcuni casi vengono traghettate al di là da questa crisi. Eh sì, ce ne occupiamo perché, come molti di voi mi auguro abbiano visto sul Sole 24 Ore di domenica, di ieri, c'era una lunga intervista al ministro Tremonti e si è parlato anche di tasse, di riduzione fiscale, ma anche di semplificazione fiscale. Non c'è solo un problema del carico fiscale, c'è anche un problema, diciamo così, di procedure che devono essere adempiute, incredibili, poi le racconteremo. Il tutto con un particolare occhio di riguardo per chi più le soffre queste procedure, che oltre che soffrire anche altri svantaggi competitivi, e mi riferisco alle piccole e piccolissime imprese di questo paese. Ma andiamo con ordine. Oggi la Presidente Confindustria Marcegaglia, nel corso di un convegno, di una manifestazione che si è chiamata Diamo Merito al Talento, ha ricordato come il mondo delle imprese, dopo un 2009 drammatico, sia comunque pronto a ripartire, nonostante il 2010 sarà ancora un anno difficile. La crescita del PIL dovrebbe essere tra l'1,1 e l'1,2%, contro un meno 5 nel 2009. Sentiamo la Presidente Confindustria al microfono della nostra Anna Marino. Il 2009 è stato un anno drammatico, però quello che possiamo dire in positivo è che intanto i posti di lavoro in Italia sono stati tenuti un pochettino di più rispetto al resto dell'Europa. Noi abbiamo un tasso di disoccupazione all'8,3% contro una media del 10%. E quello che posso dire è che le imprese, appena ci sarà un po' di risveglio di domanda internazionale, sono pronti a fare di tutto per ripartire. Noi tutte le missioni che facciamo all'estero portiamo 500, 600, 1000 imprese che hanno voglia proprio di cercare nuovi mercati. Quindi quello che posso dire è che mi pare che ci sia una grande volontà, non c'è rassegnazione, c'è volontà di riportarsi velocemente a produrre al massimo. Certo, sappiamo che abbiamo ancora davanti degli anni difficili, quindi noi come Confindustria per il 2010 stimiamo un più 1%, 1,1%, abbiamo perso complessivamente un 6% di PIL, quindi è molto lungo il percorso da fare. Però quello che posso dire è che non c'è rassegnazione da parte delle imprese, c'è voglia di ristrutturarsi, di andare avanti. Noi stiamo cercando di lavorare molto per spingere le aziende ad aggregarsi, a capitalizzarsi, ad internazionalizzarsi, insomma stiamo cercando di fare il possibile. Però insomma io darò anche un messaggio di fiducia, che la situazione è difficile, però tutto sommato le imprese italiane stanno abbastanza tenendo e hanno voglia di ricominciare a crescere appena la domanda globale si dovesse riprendere. Come dicevamo, chi storicamente anche in questa crisi soffre di più è chi ha dimensioni più piccole per un insieme di motivi. Il carico delle procedure fiscali risulta più pesante, non hai per esempio degli uffici appositi al tuo interno, e poi risulta più difficile l'accesso al mondo bancario. Sappiamo che soprattutto le grandi banche hanno un rapporto un po' più difficile con le piccole imprese, c'è una bassa capitalizzazione, lo ricordava un istante fa la Presidente di Confindustria Marcegaglia, la capitalizzazione delle imprese italiane, a maggior ragione di quelle piccole, ancora molto, molto bassa. E poi c'è il tema delle aggregazioni. Ne parliamo di tutto questo e non solo con il presidente, da poco nominato presidente della piccola industria e Confindustria, Vincenzo Boccia. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Allora, piccole imprese in Italia significa il 99,5% del totale, praticamente sono 4.200.000 imprese su 4.278.000 imprese, e questo la dice lunga su quale sia la rappresentanza della piccola industria e Confindustria. Voi avete avuto modo di ottenere un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che nel 2009 ha erogato finanziamenti per 4 miliardi e mezzo di euro a sostegno di 24.000 aziende. E tra l'altro le domande presentate dalle aziende più piccole sono aumentate del 103% rispetto al 2008 e i finanziamenti richiesti sono cresciuti del 212%. Questo dimostra che c'è bisogno, c'è fame di finanziamenti anche attraverso il fondo di garanzia. Poi c'è la moratoria con le banche. Allora, a fine novembre dell'anno scorso, chiaramente, dalle piccole e medie imprese sono arrivate 84.000 domande per finanziamenti, pari a 27 miliardi e mezzo. Il 77% delle domande è già stato ammesso e accolto. 6 aziende su 10 sono al nord, spiccano industria, commercio e settore alberghiero. Vorrei capire una cosa, il rapporto con le banche in questo momento, Presidente Boccia, sta andando un po' meglio? Visto che le piccole soffrono anche si dice problemi di trasparenza o comunque dei rating cosiddetti di Basilea 2. È chiaro, abbiamo una situazione contingente e collegata alla dimensione più piccola delle nostre imprese, che chiaramente a volte non avvantaggia la relazione col sistema bancario. Sotto l'aspetto di rapporto di relazione direi che sulle questioni di breve, quindi di finanza di breve periodo, continuano ad esserci delle piccole conflittualità in termini di costo di erogazione. Sull'altro aspetto è quello di una visione della fase della funzione finanziaria come una funzione che mai più come oggi diventa una funzione sempre più strategica per le imprese e per le banche, invece comincia una vera riflessione tra imprese e banche, perché poi è evidente che un mondo e un paese come il nostro senza imprese è un paese che non ha nemmeno più una comunità finanziaria forte. Questo a livello di breve periodo e di medio-lungo periodo, però un'altra cosa che mi interesserebbe capire è se al di là del rapporto con le banche, insomma, sappiamo va un po' meglio con le banche di credito cooperativo rispetto alle grandi, ma anche qui ci sono molte eccezioni. Vorrei capire se le piccole imprese italiane stanno realmente trovando una così, soluzione alternativa al problema delle dimensioni, perché insomma per risolvere il problema delle dimensioni puoi fare sostanzialmente tre cose: puoi aggregarti con un'altra impresa, aumentare il capitale, e devi cercare però il capitale sul mercato, quindi o ti quoti o lo chiedi come prestito o fai entrare altri soci, oppure si sta creando un meccanismo un po' all'italiano in cui il proprietario resta proprietario dell'impresa ma si mette in rete spesso e volentieri nel distretto in cui opera, per cui si cerca di condividere costi e anche strategie con una rete di imprese del territorio, magari appoggiandosi anche appunto all'associazione territoriale di Confindustria, alla Confcommercio, se non commerciante. Lei quali di questi tre fenomeni vede più presente in questo momento? Ma io direi che su questo aspetto, diciamo, le tre cose devono andare su una stessa direzione. Cioè anche la Presidente Marcegaglia prima lo ha detto, l'idea di un'impresa che reagisce e quindi di un'impresa che non resiste è nella natura delle imprese. L'impresa è di per sé carne viva, se la tocchi deve reagire, perché già il solo fatto che resista solo, come dire, è un elemento di negatività. E quindi come reagire? È evidente che il concetto di alleanza deve essere considerato un concetto ampio e in senso lato. Alleanza non significa solo fusione, alleanza significa anche network, significa alleanza sulla distribuzione o su parti della produzione, quindi un'idea che apre un percorso che può essere più soft o più integrato con la fusione. E su questo molte delle nostre aziende cominciano a valutare appunto questa ipotesi in un mercato che paradossalmente dal punto di vista geografico diventa sempre più ampio, dal punto di vista di tensione e di concorrenza chiaramente si restringe. Quindi le alleanze in senso lato, la questione, diciamo, di rapporto, quindi di dimensione non solo vista come fusione, e la capacità di reazione su cui si mette in moto un meccanismo in cui dovremmo tentare di esprimere il meglio del mondo imprenditoriale italiano, facendo anche quel grande passo da produttori a imprenditori, e quindi è una cultura di modernità che il mondo ci costringe a fare, altrimenti perderemo qualche pezzo per la strada. Mi scusi, ma lei in quanto neo presidente della piccola industria di Confindustria sta spingendo anche perché gli associati, è verissimo, l'aggregazione, la rete va bene, però forse bisogna anche aumentare il capitale di queste imprese, no? Assolutamente sì, noi siamo d'accordo, e tra l'altro vediamo per esempio in questo l'idea della SGR neocostituita come un elemento importante, perché per chi volesse far entrare appunto merchant banking o altri fondi all'interno dei propri capitali è arrivato il momento di pensarci seriamente. La cosa importante qual è? Cercare di ragionare dal punto di vista anche dei fondi, ritornando ai fondamentali del paese, cioè vedendo l'impresa come un percorso di sviluppo e di ricchezza chiaramente, ma non con una presenza breve, perché uno degli errori che si è fatto forse negli anni passati era quello di immaginare, sperare che nel giro di pochi anni dall'entrata l'impresa, come dire, potesse poi realizzare dei livelli di ricchezza elevata, e quindi la finanza da, come dire, elemento di positività interna all'azienda diventava elemento di speculazione. Se noi riuscissimo a ragionare insieme anche ai fondi e non da soli, in una logica di visione di medio-lungo periodo, ritornando ai fondamentali dell'impresa, evidentemente tutti hanno da guadagnare. Lei ricordava il ruolo delle volte, diciamo così, non sempre proficuo dei fondi di private equity, perché immagino si riferisse a questo, con una logica di a breve, cioè questi fondi entravano comprando partecipazioni di minoranza o di maggioranza nelle imprese, però con una logica che andava intorno ai 5 anni per avere una remunerazione sul capitale. E ci può ricordare esattamente il progetto della SGR invece che cosa prevede? Ma la SGR, diciamo, ha un elemento sostanziale di differenziazione che è sull'arco temporale di presenza. Prevede una presenza che può arrivare fino a 14 anni e quindi è chiaro che prevede una presenza che non riguarda immediatamente la parte speculativa, ma che riguarda invece la parte di rafforzamento. Che cosa accadrà nei prossimi anni in Italia e nel mondo? Che la differenza tra imprese non sarà tanto tra grande e piccola e media, e il flusso di occupazione non passerà dalle grandi alle piccole, come è accaduto negli anni 70, ma passerà da imprese deboli a imprese forti, e le imprese forti saranno quelle che chiaramente giocheranno una partita a tutto campo. Ecco, avere un fondo che ha una visione di lungo e di presenza importante all'interno delle aziende, quindi che le faccia crescere e rafforzare, non pensando immediatamente a come uscire, quindi evitando, come dire, appetiti da speculazione finanziaria, è l'elemento che contraddistingue quella tipologia di fondo da un fondo privato legittimamente, come dire, inteso, che ha chiaramente interessi a capitalizzare il guadagno in maniera elevata e a breve termine. Visto che ce lo scrivono e ce lo chiedono al 349-238-6666, può anche ricordare come si fa a ricevere informazioni e poi accedere a questo SGR? Sì, come no. La SGR, diciamo, ha un percorso che prevede entro il primo semestre di quest'anno l'ipotesi appunto di cominciare a ipotizzare le prime operazioni. Siamo nella fase costituente, chiaramente. Speriamo che si mantengano questi tempi, perché questo significa che dal secondo semestre di quest'anno aziende che hanno elementi, come dire, di sostanza possono candidarsi per far entrare questo fondo nel proprio capitale. Parliamo di aziende che hanno fatturato da 10 a 100 milioni. Una delle ipotesi su cui stiamo cercando di lavorare come Confindustria è ipotizzare che possano entrare anche aziende alleate tra di loro, la cui sommatoria di fatturato faccia arrivare a 10 milioni, ma su questo c'è un dibattito aperto che speriamo passi. E questo per quello che riguarda le dimensioni delle imprese, la necessità di aggregare, di fare rete. Ne parleremo più avanti anche con Aldo Bonomi, che è un economista, un sociologo che studia da sempre la trasformazione, la metamorfosi del tessuto imprenditoriale italiano. L'ultimo tema che ho lasciato, perché è quello più pesante, se vogliamo, riguarda il fisco. Alla luce di quello che ha dichiarato appunto ieri sul Sole 24 Ore il ministro Tremonti, complicazione fiscale, ci sono 80 forme di detrazioni e deduzioni per la sola IRPEF. Questo riguarda i comuni cittadini, non solo le imprese, chiaramente, come ricordato dal Sole 24 Ore. Necessità di un fisco più leggero come pressione, ma anche più semplice, perché poi le ore passate a cercare di adempiere agli obblighi fiscali fanno parte anche questo di un conto economico. Su questo e anche su questo oggi, sempre a margine della manifestazione Diamo Merito al Talento, la Presidente di Confindustria Marcegaglia, sempre al microfono la nostra Anna Marino. Abbiamo fatto un po' questa scelta di provare a ragionare su uno scenario un po' complessivo a medio termine, no? Perché pensiamo che singoli provvedimenti, singole cose, singole frasi, insomma, non risolvono il problema profondo che ha questo paese di ritrovare una via alla crescita. Per cui noi stiamo ragionando, faremo una nostra proposta breve, che ovviamente riguarderà anche il fisco, che è una parte ovviamente fondamentale, insieme alla pubblica amministrazione, alla scuola. Io penso la presenteremo complessivamente più avanti, però già prime indicazioni le daremo tra qualche settimana. Pensiamo che sia un fatto fondamentale l'equilibrio dei conti pubblici, noi lo abbiamo sempre come dire, sottolineato come elemento fondamentale, cioè se noi avessimo sforato pesantemente con i conti pubblici, insomma, sarebbe stata una scelta sbagliata, no? La Grecia evidenzia, la Spagna, però questo non può neanche essere motivo per non fare niente, no? Probabilmente ecco, proprio in questo disegno complessivo che vede il taglio della spesa pubblica in alcune cose, ma ecco, cioè non è che basta dirlo, noi vorremmo proprio fare una serie di proposte concrete, perché è facile dire tagliamo la spesa pubblica, è più complicato farlo, quindi appunto tenendo conto l'equilibrio dei conti pubblici, che per noi è un fatto fondamentale, noi però pensiamo che alcune azioni di riforma in questo paese si possano fare. Presidente Confindustria, che appunto ha annunciato a breve, nell'arco di qualche settimana, delle proposte. E saluto, perché ci ha raggiunto in studio anche il collega del Sole 24 Ore, Gianni Trovati. Buonasera Gianni. Buonasera a voi. Autore oggi assieme a Salvatore Padula di una ampia pagina sul Sole del lunedì, ampie pagine, proprio sulle richieste delle imprese quanto a semplificazione fiscale, che si parla sempre della pressione fiscale, ma c'è anche il tema della semplificazione. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere il tema di apertura oggi, mondo delle piccole imprese alla luce dei dati anche congiunturali, delle proposte arrivate e delle riflessioni arrivate dal ministro Monti nell'intervista Sole 24 Ore di ieri e oggi della presidente di Confindustria Marcia Gaglia. Vi ricordo che siamo in collegamento col presidente della piccola industria di Confindustria Vincenzo Boccia e ora anche con Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Presidente Boccia, il fisco sia come minor pressione che come maggior semplificazione. Lei nelle ultime settimane, appena si è insediato, ha avanzato un paio di proposte proprio in materia fiscale. L'idea è quella innanzitutto di cercare di inserirle, diciamo, all'interno di quello che abbiamo chiamato un intervento organico di politica economica che riguarda il medio termine del paese. Premesso che, come dire, su questo c'è un grande atto di responsabilità della stessa Confindustria, che richiamava anche la Presidente Marcia Gaglia, che è questo debito pubblico su cui dobbiamo fare i conti. Però una riforma fiscale che, come dire, passi l'attenzione dalle cosiddette imposte dirette a quelle indirette e che quindi sposti, diciamo, e alleggerisca la pressione fiscale sui cosiddetti produttori, potrebbe sicuramente aiutare. Ricordiamo, come abbiamo detto prima, che poi il grande confronto sarà anche tra concorrenti europei e tra imprenditori italiani, imprese italiane e imprese di altre parti del mondo, e noi a volte subiamo un'imposizione di alcune imposte, come l'IRAP, tanto per fare un esempio, che è una tassa sui produttori. Cioè, chi produce in Cina non paga l'IRAP, chi produce in Italia invece ha questo ulteriore elemento di appesantimento e che paga anche quando è in perdita. Quindi su questo occorre fare una grande riflessione per una riforma fiscale, tenendo presente innanzitutto l'alleggerimento del debito pubblico, ma altri due aspetti che sono i benefici fiscali per gli investitori e il cuneo fiscale. Queste sono le tre gambe su cui partire. Aggiungerei altre due cose. Una è la questione famosa del TFR, perché se è vero come è vero che oggi l'aspetto della finanza dell'azienda è una delle priorità dato il momento storico, forse è arrivato il momento di fare una riflessione su questa famosa questione del TFR, che fa sì che le imprese superate i 50 dipendenti devono obbligatoriamente trasferire o a un fondo o all'INPS. E allora su questo lasciamo ai dipendenti scegliere anche se lasciare questa parte di fondo all'interno delle proprie aziende, che mi sembra un grande atto di libertà totale di un TFR che è di proprietà dei dipendenti e che potrebbe però servire alle imprese in termini di liquidità per quella parte di dipendenti che chiaramente decidessero di fare questo. L'ultimo aspetto che è all'atere della parte fiscale sono i tempi della giustizia civile. Se noi vogliamo stimolare un paese di persone per bene, dobbiamo accelerare i tempi della giustizia ordinaria e non fare il gioco dei furbi di questo paese. Eh sì, lei sa che sul TFR cosiddetto inoptato, tra l'altro, si è basata anche parte della manovra finanziaria ultima, perché se non ricordo male erano 4 miliardi di euro che derivavano dal TFR inoptato. Possiamo però dire, Presidente Boccia, adesso arriviamo a parte della semplificazione, che comunque accanto, se ho ben capito la vostra proposta, di tassare più i consumi, l'IVA vuol dire questo, e meno il lavoro, e quindi IRAP, cioè chi più produce, aggiungo io anche IRPEF, i redditi da lavoro, bisognerebbe anche che la lotta all'evasione diventasse ancora più stringente. È un tema ormai vecchissimo, ma insomma anche con le ultime dichiarazioni dei redditi abbiamo visto che ci sono appena 76.000 italiani che dichiarano di guadagnare più di 200.000 euro lordi l'anno, 76.000, di cui la stragrande maggioranza lavoratori dipendenti. Assolutamente, lei ha perfettamente ragione, io direi che una lotta all'evasione, che significa concorrenza sleale da parte di chi chiaramente rispetta tutte le regole, ma metterei anche un'altra faccia. Ogni volta che parliamo di evasione e lotta all'evasione, che ripeto è concorrenza sleale che subisce chi rispetta le regole, dobbiamo ricordarci anche un altro aspetto che il Paese non può più consentirsi, che è la lotta agli sprechi su ogni fronte. Evasioni e sprechi stanno, come dire, allo stesso livello nei confronti del Paese e vanno risolti immediatamente, perché dati i tempi non possiamo permetterci né evasione né sprechi. Sì, hai detto che purtroppo la spesa per l'amministrazione pubblica, la spesa corrente, continua a aumentare, è aumentata di un 13% anche l'anno scorso, e lì abbiamo fatto intere puntate su dove è finita tutta quella campagna della casta, dei costi, della politica, intesi non solo come Roma ma anche come le amministrazioni locali, regionali, comunali, provinciali, le province, vabbè, tutte grandi cavalli di battaglia elettorale. Gianni Trovati, al di là della pressione fiscale, Quello che emerge dal e che già ammetteva ieri il ministro Tremonti è una complicazione fiscale che sicuramente, risolta la quale, non pagheresti meno tasse, mettiamola così, ma le pagheresti meglio, sprecando meno tempo e con costi minori, perché voglio dire, avere un'amministrazione che deve occuparsi delle pratiche burocratiche e fiscali significa, per un'impresa che magari ha 10, 15 dipendenti o 20, stornare una parte della forza lavoro per occuparsi solo di quello, della burocrazia. Che cosa è emerso e quali sono anche le linee comuni tra piccole imprese, imprese artigiane, imprese dei commercianti? Sì, noi abbiamo fatto finta di essere il Ministero dell'Economia e visto che il Ministro aveva già parlato, noi abbiamo creato un tavolo, diciamo, che riunisse tutti, grandi imprese, piccole imprese, commercialisti, professionisti e quindi persone fisiche. Chiaramente ogni categoria ha le sue richieste, ma le linee comuni sono essenzialmente tre. Uno, ricreiamo un sistema in cui sia immediatamente facile capire quello che bisogna fare, quindi riportiamo in testi unici tutta la materia delle imposte, ma anche tutta la materia delle agevolazioni, eccetera, perché i testi unici in Italia sono stati fatti, ma per esempio il testo unico delle imposte sui redditi, che è del 1986, dal 1986 a oggi ha subito 1053 modifiche, il che vuol dire che sostanzialmente è, come dire, una cosa diversa. È tutto tranne il contesto unico, con 1100 esattamente modifiche. Esattamente. E quindi la prima cosa è: riportiamo tutto all'interno di testi unici, di un testo unico che si capisca. La seconda cosa è: benissimo, grande disponibilità alla riforma, semplificazioni, eccetera, però facciamo un patto preventivo che una volta fatta questa riforma non si tocca più, nel senso che ogni anno, ogni finanziaria, per le più svariate esigenze estemporanee e congiunturali, si crea una nuova norma fiscale, si fa una nuova agevolazione che magari è in contrasto con un'altra, eccetera, con il risultato che anche le agevolazioni molto spesso sono difficili o addirittura impossibili da fruire. E terza cosa, che è strettamente collegata alle due precedenti, ricreiamo un sistema in cui ci sia la certezza del diritto, nel senso che molto spesso non solo c'è un costo legato al tempo, alla professionalità, eccetera, necessaria per pagare le tasse, ma poi devi anche sperare di aver fatto tutto giusto, devi sperare che l'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria sia condotto in modo tale da non trasformarsi comunque in un costo per il soggetto, diciamo, accertato e verificato, a prescindere dal merito della sua azione fiscale. E quindi semplicità, razionalità e certezza del diritto. E questo è quello che avete scoperto, vale per tutte le categorie che ho citato prima, quindi piccole imprese, artigiani, commercianti. Dalla grande impresa alla persona fisica, diciamo così. 17:47 minuti, adesso passiamo alla borsa. Vorrei sentire però il presidente dei piccoli imprenditori di Confindustria, Boccia, su quanto appena ricordato da Gianni Trovati del Sole 24 Ore, a partire anche e soprattutto dalla semplificazione fiscale che abbiamo visto, lo dico anche a chi scrive messaggi, vale per gli artigiani, per i commercianti, cioè, c'è una comunanza e comunione soprattutto di interessi e di richieste, magari unendolo anche a un altro grosso problema che riguarda anche qui i capitali a disposizione delle piccole imprese, ossia tutti i crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione per servizi già eseguiti o prodotti già forniti, si va dai 40 ai 60 miliardi di euro. Assolutamente, potrei dire una battuta che dovremmo sforzarci di semplificare cose complesse e non complicare cose semplici, e mi sembra, voglio dire, che tutti lo condividano. L'altro aspetto che lei segnala è sempre collegata alla parte di finanza. Immaginiamo cosa accadrebbe, come sarebbero più forti le nostre imprese se domattina la pubblica amministrazione rispettasse dei tempi di pagamento, come dire, in linea con quelle che sono le altre nazioni europee. E quindi su questo anche c'è anche una direttiva, tra l'altro, della Comunità Europea. Non dimentichiamo che è stato recepito lo Small Business Act da parte del governo proprio in dicembre 2009, e su questo occorre coerenza ed esemplarietà. È evidente che, dato l'importo, non ci riusciamo in un attimo, ma occorre sforzarsi per creare una normalizzazione delle cose nel giro di breve. Possiamo individuare un percorso, ma su questo va affrontata la cosa, altrimenti tutti parlano della piccola impresa, tutti la amano, ma amano anche tutto ciò che complica la vita delle imprese italiane, in particolare delle piccole. Questo il paese non lo può consentire. Ricordiamo che è un paese, come lei ha detto all'inizio, che deve la sua ricchezza a questo tessuto di imprese, che è quella comunità di persone, imprenditori e lavoratori, che fanno la grande differenza di questo paese rispetto ad altri, che non ha materie prime e che costruisce la ricchezza. Quel famoso progetto di vita che molte volte lo stesso Aldo Bonomi, che le ha citato prima, sottolinea, che noi condividiamo totalmente. In una battuta per concludere, e poi passiamo ai mercati, i segnali, i sentori che lei raccoglie sul territorio, nei suoi associati, che appunto sono il 99% delle imprese italiane, sono di un 2009 che è iniziato un po' meglio con qualche segnale, oppure si sta ancora stringendo un 2010, scusatemi, mi fanno accendere la regia che oggi ho perso un anno, un 2010 che è iniziato un po' meglio rispetto al 2009, oppure si soffre ancora molto, cioè quindi le dinamiche complessive valgono più, di un leggero miglioramento valgono più per i medio grandi che per i piccoli? Sicuramente c'è una tendenza al miglioramento che però non compensa quanto è accaduto nell'anno precedente. Con una battuta potrei dire che i nostri colleghi sono ottimisti nelle aspettative e pessimisti nelle previsioni, e chiaramente, come tutti gli imprenditori, si stanno preparando a reagire. A volte sono un po', come dire, arrabbiati per questo senso di solitudine e di disattenzione che è collegato ai tempi di pagamento della pubblica amministrazione, a questo fisco che non si ritiene equo verso i produttori, e questo è l'altro aspetto, come dire, del sentiment degli imprenditori italiani. Accanto a questo non significa che si rilassano, ma hanno voglia di reagire, come ha detto anche la Presidente Marcegaglia, aspettano, come dire, la post fase recessiva per prepararci al futuro. Chiaramente ci rendiamo conto che viviamo in un momento delicato, ma ci sono anche aree del mondo che stanno crescendo a ritmi elevati, e noi dobbiamo capire ed intercettare quelle aree per vendere i nostri beni, prodotti e servizi e tra gli investitori. Questa è la grande sfida, e speriamo che il contesto della politica economica ci aiuti e non, come dire, ci limiti in questa funzione che riteniamo di esprimere. Gianni Trovati, anche per te una battuta conclusiva. Mi vorrei ricollegare all'intervista del ministro Tremonti. C'è un passaggio in cui Tremonti, dopo aver ricordato che il sistema fiscale italiano non è né giusto né efficiente, è complicato, così dice: insomma, la riforma fiscale non si può fare quest'anno, la mettiamo in cantiere, però si finanzierà anche il suo interno. Ecco, come giudizio quasi di analisi così, di politica economica, politica fiscale, secondo te il tentativo del ministro sarà quello di, e chiaramente a parità di gettito, rimodulare le varie tasse e quindi andare anche nella direzione chiesta da più parti, compresa la piccola industria e Confindustria, un IVA un po' più pesante, cioè una tassa più pesante sui consumi, io dico, aggiungo anche magari sui redditi complessivi, e meno pesante sui redditi da lavoro e su chi svolge attività produttive? Sì, questa nel piano che si sta delineando è la seconda tappa, diciamo, della riforma fiscale, della scommessa di Tremonti, e mi pare che l'unica strada percorribile per, appunto, non versare un tributo eccessivo di miliardi di euro sull'altare della riforma sia proprio quello di spostare il carico dalle dirette alle indirette, dai redditi ai consumi. Teniamo conto anche che noi non siamo sulla luna, ma stiamo parlando di questa cosa in un paese che sta per varare i decreti attuativi del federalismo fiscale. E proprio il federalismo fiscale, da quello che, come dire, pare di capire, pare di intuire nel cantiere che è aperto, dovrebbe dedicare un capitolo importante all'IVA, e quindi l'IVA diventare proprio l'imposta perno del federalismo fiscale, il che in un sistema che è complicato da costruire, ma se costruito bene può essere efficace, può moltiplicare anche diciamo gli agenti in campo nella lotta anti-evasione, comuni, province e regioni, perché l'IVA, se noi la fotografiamo bene sul territorio, chiaramente ogni ente locale, in un meccanismo di federalismo fiscale basato sull'IVA, avrà tutto l'interesse a evitare forme di spreco e di evasione che invece oggi tollera con grande cortesia. Quindi il contrasto all'evasione dell'IVA, che sappiamo essere comunque alta, anche attraverso gli enti locali. Grazie, in bocca al lupo a tutti i suoi associati, al presidente della piccola industria Confindustria Vincenzo Boccia. Grazie a lei. E grazie al collega del Sole 24 Ore Gianni Trovati. Grazie a voi, salve. Ed eccoci alla borsa, che non sarà in due secondi, come scrive qualche ascoltatore sempre un po' critico. Semplicemente quando la giornata è piatta, Wall Street è chiusa, mancano gli spunti, la facciamo, ma diamo anche spazio anche a altri temi. Allora, la borsa più 0,1%, in evidenza Bulgari più 2,3%, Telecom più 2%, Exor più 1,7% come Luxottica, 1,5% Tenaris, l'1,3% la guadagna Ansaldo e Mediobanca, l'1% l'Ottomatica, lo 0,80% il rialzo di A2A e anche di Campari. Chi perde di più? Pirelli meno 1%, Dolcementi meno 1%, Banco Popolare meno 0,90%, Unipol meno 0,6% come CIR e Atlantia, ma anche Intesa. Unicredit perde 0,5% come Mediolanum e il Monte dei Paschi. Migliori e peggiori in assoluto: House Building più meno 9,7%, e il migliore Terni Energia più 22%, Antichi Pelletieri più 12,3%. Prima parte della borsa la facciamo adesso, poi dopo il GR la seconda parte, e poi torneremo a parlare di come cambia il paesaggio della nostra economia. E allora, come sempre, con Radio Corriere sulle 24 ore, Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, senza Wall Street, oggi le borse europee si muovono su temi molto molto, diciamo, continentali, chiamiamoli così. Telecom Italia, sempre sviluppi sul fronte centino, mi sembra, visto il rialzo, che dovrebbero essere questa volta notizie positive. Certamente l'indicazione a sorpresa del Tribunale di Buenos Aires, che ha accolto il ricorso d'urgenza presentato dai soci Telco e la stessa Telecom contro la decisione dell'antitrust di vendere forzatamente entro il 25 agosto la partecipazione in Telecom Argentina, ha sostenuto il titolo, lo hanno sostenuto peraltro anche le parole di Bernabé, che venerdì sera a mercati chiusi aveva parlato, insomma, di piano industriale invariato e anzi anche di una campagna di Natale particolarmente positiva per quanto riguarda Telecom Italia. Questi i due fattori che hanno spinto il titolo. Va detto anche di un settore oggi rimesso sotto i riflettori da parte di qualche analista, e questo ha un po' portato a ricoperture sul titolo Telecom, anche con volumi buoni, perché 93 milioni di pezzi trattati contro una media di solito che è inferiore ai 70 milioni di pezzi giornalieri. E questo per quello che riguarda il tema di maggiore attenzione oggi sul mercato, questo recupero di Telecom sopra l'euro per azione più 2%. Dopo il GR, con buona pace di chi può attendere, parleremo di Bulgari, perché di nuovo non c'è solo l'euro debole a 1,43, ci sono anche previsioni sul settore del lusso che non sono negative, e invece sul fronte negativo di Pirelli, che oggi un po' ha sofferto per via, lo dico già, della parte immobiliare. Tra i minori, tra i più piccoli, Antichi Pelletieri, che con l'accordo, presunto accordo bancario, si riprende, e di nuovo Seat. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'aggiornamento e il commento alla giornata di borsa, e poi passare ai temi di come sta cambiando il panorama, il paesaggio imprenditoriale e industriale italiano. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, Andrea Fontana, si diceva di Telecom, va anche detto, fanno bene a notarlo gli ascoltatori, che sulla vicenda Telecom, oltre che uno sviluppo positivo, attese buone notizie sul fronte argentina, c'è anche una dichiarazione spagnola in cui la Spagna vorrebbe dall'Italia una maggiore apertura agli investimenti delle aziende spagnole. Lo ha dichiarato il ministro dell'industria spagnolo Miguel Sebastiani, il quale poi sull'ipotesi di fusione tra Telefonica e Telecom Italia ha detto che comunque il governo spagnolo non interferisce con le decisioni delle compagnie. Veniamo a Bulgari, miglior titolo a 6,40 euro più 2,3%. Andrea. Beh, sull'intero settore del lusso, come tu appunto ricordavi in precedenza, oggi hanno influito le indicazioni del gruppo svizzero Richemont, che ha fornito i risultati delle vendite del terzo trimestre, che sono cresciute nell'ordine del 2% a 1,58 miliardi di euro, ma soprattutto hanno dato un'indicazione, un segnale al mercato che per quanto riguarda i beni di lusso potrebbero esserci segnali positivi, potrebbe esserci una ripresa, tant'è vero che ne ha risentito positivamente Richemont a Zurigo, ha guadagnato oltre il 3%, hanno risentito un po' tutti i titoli del lusso. Bulgari è stata la migliore a Piazza Affari, ha guadagnato il 2,3%, bene anche Luxottica 1,7%, ma anche Louis Vuitton e altri titoli del lusso come Swatch Group ad esempio, o come Damiani per quanto riguarda il listino milanese, oggi hanno incontrato una buona seduta. Ancora sui titoli, andiamo ai peggiori, perché Pirelli oggi, Luxottica si lega anche se all'euro più 1,70%, dicevo Pirelli oggi ha sofferto, il titolo peggiore non è un calo preoccupante, meno 1%, però qui, se ho ben capito, pesano i destini e i dubbi sulla Pirelli Real Estate, quella che si occupa appunto del settore immobiliare. Sì, certamente la seconda correzione consecutiva per Pirelli, diciamo che il mercato, nonostante diciamo l'impegno ribadito da parte di Pirelli stessa e dei suoi soci a trovare una soluzione e continuare a lavorare al progetto di separazione o di valorizzazione delle attività immobiliari, il mercato nutre non poche incertezze sulla buona conclusione di questa operazione, le cui prime mosse sono state annunciate a novembre e da quel momento in realtà non c'è stata appunto non ci sono stati punti fermi raggiunti dallo studio né da parte di Pirelli né da parte di Fimit SGR, che sarebbe il partner con cui concludere appunto un accordo, un'eventuale integrazione per le attività di Real Estate. Su questa incertezza che è rimbalzata anche sui giornali in questi giorni, il mercato ha un po' penalizzato il titolo. È chiaro che gli operatori da tempo si attendono che il titolo Pirelli possa beneficiare dello scorporo dell'attività di Real Estate, questo sembra poter ancora slittare e per questo diciamo il mercato ha un po' penalizzato il titolo. Ancora per quello che riguarda i titoli, diciamo tra i migliori e i peggiori, in assoluto il titolo House Building, il peggiore, meno 9,70, Antichi Pelletieri, che è controllata dal gruppo Mariella Burani, guadagna il 13%. Sì, la reazione è dovuta alle indiscrezioni circolate venerdì e sostanzialmente confermate con un comunicato della società arrivato in mattinata, secondo cui appunto ormai insomma, le trattative tra la società e le banche per il piano di ristrutturazione appunto dei debiti di Antichi Pelletieri sarebbero ormai in dirittura d'arrivo. Venerdì insomma sembra che siano arrivati i primi via libera da parte di gran parte delle banche coinvolte, esposte verso il gruppo. È chiaro che sarebbe una delle controllate quotate di Mariella Burani che diciamo concluderebbe o metterebbe comunque un primo punto fermo sul piano di ristrutturazione. Il mercato l'ha premiato, vediamo che cosa succederà per le altre e per la capogruppo. Va detto che tra le altre controllate oggi molto bene anche Bioera, che ha guadagnato l'8,4%. Grazie Andrea Fontana, Radio Coro Il Sole 24 Ore. Adesso un aggiornamento di altre notizie uscite in questa ora e mezza e poi appunto il tema della trasformazione del paesaggio industriale italiano. Le notizie giunte riguardano soprattutto il traffico aereo. Allora, c'è infatti il dato diffuso oggi a livello europeo, Assa Aeroporti, e per quello che riguarda l'Italia, l'andamento degli aeroporti italiani, vede un proprio vero crollo delle partenze, degli arrivi a Linate, quindi Milano, meno 10,5%, in forte calo anche Malpensa, meno 8%, 8,7%. Tiene, o meglio cala, ma in maniera non così forte, Fiumicino, meno 4%. E c'è un leggerissimo recupero per Ciampino, più 0,2%. Complessivamente, anche se mancano alcuni dati di alcuni scali, c'è stato un calo del traffico aereo l'anno scorso del 2,7%, e sono stati 112 milioni e 450 mila i passeggeri che l'anno scorso sono transitati nei nostri aeroporti. Fiumicino la fa da padrone con 34 milioni, poi Malpensa 17 milioni, Linate con 8 milioni e 2, ma insomma il calo più forte è Linate, meno 10%, e anche Malpensa. Sempre sul fronte dei passeggeri è stato dato, è migliorato molto a dicembre. A Fiumicino sono transitati un 14% in più di passeggeri rispetto all'anno scorso, e in leggera crescita anche Malpensa, più 2%, Linate più 4,8%. Ma la notizia che è giunta poco fa riguarda la compagnia Lufthansa, che ha deciso di sospendere dal prossimo 16 febbraio i collegamenti sulla rotta Milano-Malpensa-Roma-Fiumicino. Si è rivelata infatti al di sotto delle aspettative. Lufthansa, che sta investendo anche in maniera pesante su Malpensa, ha annunciato che comunque dal prossimo 28 marzo vi saranno altri collegamenti da Malpensa per altre città europee. Però per quello che riguarda il motivo per cui ha abbandonato la rotta Malpensa-Fiumicino, dice Lufthansa, è continuato il monopolio di Alitalia sulla rotta Milano-Linate e Roma-Fiumicino, e quindi non era economico, si è rivelato al di sotto delle nostre attese, mantenere il servizio Malpensa-Fiumicino. Ancora per quello che riguarda i dati europei, in attesa del vertice Eurogruppo di questa sera, che si occuperà anche soprattutto di Grecia, sono arrivate oggi alcune stime sull'Italia e sugli altri paesi europei. Ultima parte di Focus Economia, e allora torniamo a parlare di economia, economia reale. Oggi poca finanza, va così la cronaca di questa giornata economico-finanziaria, e molta economia reale, economia manifatturiera. E questa sera si incontreranno, come dicevo, i ministri economico-finanziari dell'area euro e domani mattina anche quelli di tutta l'Europa. I temi in discussione sono capire se c'è un accordo per una tassa sulle banche, sul rischio che si assumono le banche sul modello americano. Anche lì una tassa unica europea, un prelievo unico europeo sui bonus ai manager, anche in questo caso bancari, e poi il tema della Grecia. Questo nel giorno in cui dall'Europa arrivano delle stime buone, migliori delle attese per Francia e Germania. Il PIL infatti francese e tedesco dovrebbe crescere dell'1,5%, 1,4 la Francia, 1,5 la Germania, meglio delle attese. E restano invece luci e ombre sull'andamento economico italiano. C'è infatti un rapporto mensile che riguarda il nostro paese, è redatto dalla Commissione Europea, riguarda l'occupazione. Dice: attenzione, l'Italia è ancora presto per parlare in Italia di una solida ripresa dopo che vi è stato un PIL che ha fatto un meno 1% nel 2008 e un meno 5% nel 2009. Previsioni oscillano per quest'anno tra lo 0,7% e l'1,2%, ma comunque cresce in Italia come in altri paesi l'occupazione. I paesi peggiori, scusatemi, la disoccupazione, quindi diminuisce l'occupazione. I paesi in cui, secondo Bruxelles, l'occupazione diminuisce in maniera più consistente sono la Spagna e l'Italia, mentre in Francia e in Germania la disoccupazione, l'occupazione cala, ma in maniera più moderata. Nel 2009, continua Bruxelles, hanno perso il loro lavoro più di 500.000 di italiani, e per la prima volta nell'ottobre del 2009 il numero dei disoccupati in Italia ha toccato i 2 milioni, non accadeva dal 2004. Comunque, fa notare Bruxelles, il tasso di disoccupazione in Italia resta attualmente sotto la media dell'Unione Europea di 1,5 punti circa. La principale preoccupazione però per l'Italia è la disoccupazione giovanile, 26% della popolazione sotto i 25 anni che era senza lavoro a fine 2009, un 5% in più della media europea. In Europa in media è il 20%, da noi si arriva al 26,5%. E poi dati oggi che riguardano commercio con l'estero. Novembre, il saldo resta negativo, 790 milioni di euro il deficit commerciale complessivo, quindi Europa e fuori dall'Europa, con esportazioni che sono calate del 9% e importazioni calate di quasi il 10%, quindi il saldo è migliorato. Soprattutto c'è un miglioramento con ottobre, sia per le esportazioni che fanno più 2,5 che per le importazioni. A noi in questo periodo interessa molto il mese su mese, non l'anno su anno. I cali più grossi rispetto al novembre 2008 sono con la Germania, meno 9, la Spagna meno 7, Gran Bretagna meno 12, Russia meno 30, America meno 24%, più contenuto il calo del nostro export verso la Francia, meno 3%, e bene in Cina e India, più 8,6% le nostre esportazioni in Cina e più 22% in India. Sul fronte del settore tiene l'alimentare, più 3%, la chimica più 5%, male la meccanica, meno 17%, le auto meno 15%, tessile e abbigliamento meno 16%, mobilio meno 17%. All'economista Aldo Bonomi, direttore dell'Istituto di Ricerca Aster, editorialista del Sole 24 Ore, intanto buonasera. Buonasera a voi. E poi cerchiamo di tenere assieme il tema di apertura, la nostra intervista col presidente della piccola industria di Confindustria Boccia, i temi del fisco evocati, toccati dal ministro Tremonti su Sole 24 Ore di ieri, con un tema che lei sta molto a cuore, cioè il paesaggio dell'impresa italiana, come cambia, potremmo dire, la morfologia del nostro modello di impresa. Allora, abbiamo capito nella prima ora del programma che resta il problema della bassa capitalizzazione delle piccole imprese italiane, di un eccesso di burocrazia fiscale, non è solo il peso del fisco, ma tutti gli adempimenti e il tempo che si perde, che con le banche grandi ancora c'è qualche problema di comprensione nel breve, ce lo diceva lo stesso presidente, che ancora si lamentano, che però c'è un tentativo tutto italiano, che, di cui lei parlava tra l'altro proprio su Sole 24 Ore di ieri, di far tornare a volare il calabrone. Che cosa vuol dire che queste piccole imprese si stanno mettendo in rete? Prima cosa che mi viene da dire è che bisogna andare oltre e cercare di andare un po' oltre, di scavare un po' più a fondo rispetto alle tre cose che sappiamo tutti. Certamente il carico fiscale, la burocrazia, il rapporto con le banche. Se lei parla con qualsiasi imprenditore del capitalismo molecolare, qualsiasi piccola impresa, questi sono, è il primo cahier de doléances, la prima cosa che le dice, e va benissimo. Poi però bisogna anche cercare di capire come attraversano la crisi questi 2,5 milioni di imprenditori, in cui ovviamente non esageriamo con la definizione di imprenditori, direbbe qualcuno, perché molti sono ditte individuali, molte sono ditte da 3 a 5 addetti, quelli che noi chiamiamo gli artigiani, quelli ditte individuali sono le partite IVA, gli altri sono gli artigiani, e poi abbiamo le piccole imprese, che sono quelle che si fermano sulla soglia dei 15 addetti, che sono un altro 0,5 milioni. Quindi tendenzialmente questo è il quadro con cui abbiamo a che fare. Allora, scavando nella loro antropologia, oserei dire, cioè nella loro, virgolette, concezione del mondo, concezione della crisi, sappiamo benissimo che la crisi non è solo quei dati freddi economici che lei ha citato prima e statistici, ma è anche un problema di fiducia, di voglia di fare, di mettersi sotto sforzo per attraversare le difficoltà e vedere di reggere. Si possono scomporre questi, virgolette, operosi fondamentalmente in tre grandi categorie. Ci sono e c'è un'avanguardia agente, cosa voglio dire? C'è un'avanguardia che ha reagito alla crisi, soprattutto le piccole imprese, ma anche le ditte individuali, che hanno cercato di attivare maggiori reti lunghe, cioè di internazionalizzarsi un po' di più, di annusare i mercati, di capire come andare, e non solo, hanno cercato anche di mettersi assieme rispetto a quelle che sono le loro debolezze e le loro difficoltà. Si sono messi assieme sulle difficoltà principali, pensiamo ad esempio al ritorno a una cosa antica come i consorzi fidi, per avere un mediatore di fiducia rispetto alle banche, soprattutto quelle grandi, in cui è difficile avere un rapporto fiduciario personale, e quindi ad esempio i consorzi fidi hanno svolto una grande operazione di aggregazione, si sono messi assieme per utilizzare al meglio, cosa impensabile per le piccole imprese fino all'altro giorno, perché a cogestire col sindacato la cassa integrazione in deroga. Lei pensi che noi eravamo abituati alle grandi trattative che venivano a Roma, al Ministero del Lavoro, oppure che avvenivano sulla grande crisi industriale della grande impresa. Sì. Tutti quanti noi ricordiamo i telegiornali che dicevano se incontro per la Fiat e i sindacati, certo, per ragionare su questo. E invece, giorno per giorno, in una dimensione locale, tutta locale, si è fatto un discorso di confronto col sindacato per ragionare su come gestire la cassa integrazione in deroga, che, ecco, come scrivevo ieri, significava, ad esempio, ha significato per molti padroncini capire quali dei 15 operai, chi era divorziato, quanti figli ha, le difficoltà, discutere un attimo di questo per non fare tabula rasa del sociale rispetto ai numeri che lei diceva prima dei 2 milioni di disoccupati che abbiamo davanti. Ecco, professor Bonomi, siccome abbiamo un paio di minuti, volevo sentire gli altri due tipi di impresa. L'avanguardia agente, come l'ha chiamato lei, è quella che ha avuto maggior coraggio, gli altri due come titoli? Due sono quelli che hanno subito più la crisi, che ho detto, li ho chiamati perché secondo me è giusto anche dargli un po' di poesia rispetto a sta roba, quelli della danza immobile, quelli che sono stati fermi, e gli stressati, cioè quelli che hanno attraversato la crisi riducendo il bilancio e avendo ridotti gli ordini della loro subfornitura, perché ovviamente la crisi è partita dall'alto anche dalle grandi imprese e poi arriva a toccare il tessuto dell'economia diffusa, e anche loro cosa hanno fatto? Però non hanno chiuso. Molti casi di impresa sono racconti di gente che ha cercato di sopravvivere e di attraversare la crisi mantenendo l'impresa, molto spesso, va detto anche questo, cercando di immettere nell'impresa quei famosi soldi accumulati nella famiglia ricca, che ovviamente era quella che aveva usufruito dei tempi delle vacche grasse. Allora, è chiaro che l'augurio è che poi l'avanguardia agente, cioè da punta così più avanguardista, appunto, diventi anche un modello per tutti gli altri, cioè i confidi, strumento importante, la rete per ridurre costi, approvvigionamento e quant'altro, e non riguardi solo un piccolo numero di imprese. Devo però chiudere questa puntata con una notizia non bella, perché in Veneto, nel nord-est, iniziano a avere problemi anche marchi forti, storici. Oltre alla cassa integrazione si è già raggiunto l'accordo per la Lotto, è una notizia che è appena stata battuta dalle agenzie, la Dainese, e quindi Molvena, provincia di Vicenza, paese più ricco del Veneto, se non ricordo male, come reddito pro capite, Dainese, tutta da moto e non solo, azienda leader, insomma, ha deciso che vi sono 80 esuberi e 120 dipendenti andranno in cassa integrazione. Fra 12 mesi invece ci sarà licenziamento per 80 di questi dipendenti, la produzione verrà spostata all'estero, e da quello che si capisce l'agenzia, nel disegno organizzativo, lo stabilimento a Molvena avrà il ruolo di progettazione, non solo più di produzione. Ecco, speriamo che i casi restino il più possibile isolati. Professor Bonomi, noi come sempre ci risentiamo ciclicamente per vedere appunto quanta parte del tessuto cambierà. Grazie a Aldo Bonomi, editorialista sulle 24 ore e direttore dell'Istituto di Ricerca Aster. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, vi lascio alla nostra programmazione, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.